è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Santa Lucia, lontana te, quanta malinconia, se giro mondo sana, se va a cerca fortuna, ma quando sponta luna, lontana Napoli non si può stare. Santa Lucia, Santa Lucia, caro Parenzo. Hello. Santa Lucia lontana, una canzone popolare napoletana. Questa è la Zanzara, 800 24 00 24. Notizie clamorose arrivano da Santa Lucia. Chissà se vere, false, perché insomma, diciamo la verità. Quando arrivano notizie da Santa Lucia, nessuno di noi può pensare che sia tutto credibile, no? Giusto? Cosa pazzesca. Io mi sto divertendo come un matto in questa vicenda. No, meraviglioso, meraviglioso. Meraviglioso. Allora, cosa è accaduto? Cerchiamo di riassumere per gli ascoltatori. Nel pomeriggio, ecco. Gianfranco Fini, attraverso i suoi uomini, il suo ufficio stampa, annuncia che cosa? Annuncia che domani verrà reso noto in un video, verrà resa nota la sua verità sul caso dell'appartamento di Monte Carlo. Parenzo è in grado di dirci da chi questo video viene preparato in queste ore, no Parenzo? Sì, beh, c'è una società che si occupa di fare questo per conto di Generazione Italia e Fare Futuro, e questo video verrà diffuso, poi questa è una cosa interessante, verrà diffuso in questo in rete. Verrà diffuso in rete, che è una novità rispetto a Berlusconi del 94, perché il metodo è lo stesso, dare una cosa già pronta senza conferenza stampa, no? Sì, e poi magari seguiranno altri, ovviamente, altri momenti in cui lui spiegherà, però lui usa questo metodo della rete e lo trasmetteranno sul sito del Secolo d'Italia e su Generazione Italia. Boom di contatti, dunque, no? Evidente, si può prevedere un boom di contatti, certo. D'assalto, insomma, questo fine. A un certo punto la cosa secondo me non può essere casuale, però può darsi anche che sia casuale, per carità. Il mitico, a questo punto, ministro della giustizia di Santa Lucia, diciamolo direttamente in italiano, Santa Lucia, Rudolf Francis, già avvocato? Sì. Sì, è un avvocato, si è occupato di paradisi fiscali, tra l'altro. Esatto, paradossalmente. Meraviglioso. Rudolf Francis, in una conferenza stampa, cosa dice? Il documento è mio, l'ho compilata io. Attenzione, questo tipo di documenti viene emesso quando il nome del nostro Stato viene citato in caso di inchieste o notizie giornalistiche. Raramente questi documenti arrivano all'attenzione della stampa, ma in questo caso era giusto farlo. Cioè, la cosa è spettacolare perché spiega il fatto che questo tipo di documenti in realtà non è così strano che escano, perché viene emesso all'interno, naturalmente, di comunicazioni tra il ministro e il primo ministro quando il nome del nostro Stato viene citato in inchieste giornalistiche. Poi dice raramente arrivano all'attenzione della stampa, ma in questo caso era giusto farlo, cioè alla fine la stampa gli ha dato lui il documento, l'ha fatto circolare lui. Cioè, il ragionamento, la conferenza stampa è durata 3 minuti, tre minuti a Santa Lucia, così, e poi tutti a casa. I canali sono sintetici, non è che fanno. Poco prima, sempre sulle note di Santa Lucia. Ma quando sponta luna, lontana Napoli non so basta. Ecco, prima dell'irrompere del ministro di Santa Lucia, Italo Bocchino, pretoriano di Fini, questo dichiarava. Quello che dice il ministro di Santa Lucia non cambia assolutamente il nostro giudizio sull'operazione di dossieraggio e sul fatto che si tratti di una patacca. Questo sarà chiarito in maniera incontrovertibile. Nell'intervista, a parte l'anomalia di uno che risponde sì e poi fa click chiudendo il telefono, quindi già questo lascia capire di fronte a chi ci troviamo, emergerà in maniera chiara che tutto quello che è stato fatto è stato prodotto per un'operazione di dossieraggio. Se va a cercare fortuna, Poi dice: la democrazia è in pericolo. Noi abbiamo la certezza che non c'è la proprietà da parte di Giancarlo Tulliani, ma il problema non è questo più. Ormai il problema non è più sulla proprietà della casa di Monte Carlo, il problema riguarda la democrazia di questo paese, dove la terza carica dello Stato, nel momento in cui dissente dal Presidente del Consiglio, che ha a disposizione una serie di mezzi, tra cui molti mezzi di informazione, è sottoposto ad un linciaggio e quindi si limita il diritto democratico di un grande esponente istituzionale di far politica e di dire la sua. Insomma, caro Parenzo, è la guerra termonucleare tra Fini e Berlusconi, che avrà però nelle prossime ore forse un chiarimento definitivo, forse no, perché insomma Fini dovrà rispondere anche in base a quello che ha detto il ministro della giustizia di Santa Lucia, o sbaglio? No, il giallo, voglio dire, la tensione sale, cresce, però qui vengono fuori due notizie, già le possiamo dare. La prima è che se un merito ce l'ha Tulliani, che è quello di aver scardinato un paradiso fiscale. Cioè, laddove Obama e il ministro Tremonti e quanto non sono riusciti ad arrivare, è vero. E Tulliani ha questo grande merito. Distrugge Santa Lucia, però. Ha distrutto un paradiso fiscale, quindi evviva Tulliani. Perché tu dici che da questo momento in poi, nessuno si fiderà più di Santa Lucia. Ma chi se Santa Lucia ormai diventa un luogo terribile, un luogo dove escono le notizie, perché l'agenzia di stampa per far uscire, per distruggere un paradiso fiscale. Quindi Tulliani, bravo, bene Tulliani, bene Fini, avete distrutto un paradiso fiscale, meglio di Tremonti, meglio di Obama. Seconda cosa? La seconda cosa è clamorosa, perché adesso vorrei capire come, se la democrazia è a rischio, come i finiani potranno votare la fiducia. Ah beh, certo, certo, certo. Questo era il secondo punto, perché se è in pericolo la democrazia, qui non è che... Ma questo è un ragionamento che poteva valere anche prima, secondo me, quando si dice che Berlusconi è liberale e tutto quanto. Cioè, perché ora hanno spostato tutto, ora dice il problema non è più la casa, che potrebbe... Sì, è la democrazia, il dossieraggio, l'uso... Ma che lì la casa, sulla casa qualche problema forse c'è, sembra di capire leggendo tra le righe di canzoni di Bocchino, ma ora il problema è la democrazia, la tenuta della democrazia. Come si fa a votare la fiducia in questa situazione? Altra canzone regalata dai nostri ascoltatori sul tema della zanzara, eccola qui. Non mi molesta il moschito, non mi molesta il moschito, non mi molesta il moschito, retourne chez toi. Je fais la sieste moustique, arrête un peu ta musique. Ne sois pas antipathique, ne me pique pas. Ne me pique pas. Moustique, mon vieux, tu vois. Joe Dassin in francese, non me moleste moschito, spettacolare. Mai a livello, naturalmente, dei Ridillo con Zanzara. Parti 800 24 00 24. Cerchiamo di molestare un po' un personaggio che secondo me è spettacolare. Caro Parenzo, il personaggio si chiama Deodato Scanderebeck. Onorevole Scanderebeck, ho pronunciato bene? Benissimo, bravo, complimenti. Scanderebeck, Scanderebeck. Perché lei, caro Scanderebeck, secondo me ha realizzato un record, secondo me, inavvicinabile. Cioè, non è proprio così. Comunque. Sì, assolutamente. Guardi, ricordiamo i nostri ascoltatori. Lei è diventato deputato, tra l'altro, coronando un sogno di una vita, no? O sbaglio? Sì, di una vita politica. Di una vita politica, beh, certo, però... 15 insomma, anni di politica, sì. Sì, un sogno, comunque era molto contento, sì, eccetera, sì, eccetera. Il sogno di diventare deputato, perché Bietti è stato eletto al CSM. Vicepresidente. Quota UDC, dunque, nella lista dell'UDC. Sì. Però lei è passato al PDL, si è iscritto al gruppo del PDL. Sì. Tutto questo avveniva all'inizio di agosto, più o meno. Sì. Cioè, dal punto di vista parlamentare pochi giorni fa, perché c'è stata la pausa di agosto, cioè 10 giorni fa dal punto di vista parlamentare. Dopodiché sono bastati questi 10 giorni. No, sono passati 2 mesi. No, che 2 mesi? Inizio di agosto, a parte che non sono 2 mesi. È stato il dibattito politico a livello mediatico, mai successo in passato. A livello parlamentare, Scandere, perché mi scusi, all'inizio di agosto... Poche, a livello parlamentare poche sedute. Certo. 10 giorni, diciamo, una decina di giorni di vita parlamentare. No, 2 mesi di politica attiva. No, 1 mese e mezzo, se per questo. Ma facciamo anche solo un giorno, non è questo il problema. D'accordo. Lei è tornato al gruppo UDC, dunque si è iscritto, dunque da lista UDC, lista PDL, ed è tornato dopo 10 giorni all'UDC. Parenzo, questo secondo me è un record difficilmente battibile. Sì, non sbaglio. Però, un attimo solo, Scanderebeck. Parenzo, un record assoluto. Un attimo, Scanderebeck. Non so quale sia, parte che non so quale sia il nome e quale il cognome del onorevole. Nome Deodato, cognome Skanderbeg. Ah, d'accordo, allora lo chiamo Deodato perché ho difficoltà con la pronuncia. L'onorevole Deodato ha battuto tutti i record assoluti, è più efficiente di un pendolino dell'alta velocità nel nostro paese. Voi sapete, l'alta velocità non arriva quasi mai puntuale nelle stazioni. No, dire così, non è vero. Io le aggiungo ancora un altro dato, allora, sempre questo. Qual è il io dato? Io prima ero ancora di Forza Italia, sì, io sono nato dentro Forza Italia, sono tornato in Forza Italia, quindi io sono stato tra Forza Italia e l'UDC, che secondo me, cioè, hanno lo stesso elettorato, hanno gli stessi, sì, obiettivi, hanno le stesse linee guida politiche, eccetera, ossia tutti questi due partiti entrambi. Ho capito, ma oggi l'UDC è all'opposizione, però. Centro moderato, l'UDC è più centro. Beh, è all'opposizione che non oggi, Forza però. Italia di una volta e PDL attualmente, per cui io non ho mai tradito gli elettori. No, ma Skanderbeg, perché al di là del tradimento degli elettori, certo, o meno, certo, perché sanno benissimo cosa lei ha fatto, dunque sono in grado, esatto, di giudicare. Quindi, però esatto, adesso l'UDC è all'opposizione, lei è passato in 10 giorni da un partito che è al governo a un partito che è all'opposizione. No, ma ripeto, come no? È così, oggettivamente. Sono andato nel momento, in un momento un po' particolare della mia vita politica, eccetera, eccetera, dove c'erano dei problemi sul territorio regionale. Ma capito, lei si è iscritto al PDL, non è che è stato. Non è che l'ha obbligato qualcuno. Dal partito, peraltro, in cui avevo già militato, eccetera, eccetera. Prima dell'UDC. Certo, che vedo quest'ultimo dato, appunto, che lei non conosceva. No. Questo per dirle che non, sì, sono andato, non sono passato da una coalizione all'altra, ma detto questo. No, mi scusi, sempre, lei è passato sempre, da una coalizione sempre, all'altra, è passato dall'UDC all'opposizione, al governo del PDL. Sempre per motivi strettamente territoriali sul territorio e non per divergenze con la dirigenza nazionale. Sia in passato, quando da Forza Italia sono passato. Vabbè, ma sarà per motivi territoriali, sarà per motivi nazionali. Tengo a precisare che nel 2001 io ero assessore all'agricoltura della regione Piemonte in conto Forza Italia. Ho capito. L'allora presidente Ghigo. Dunque, lei ha fatto. Sì, ma lasci perdere le questioni regionali, che pure sono importanti. Lei ha fatto Forza Italia, UDC, PDL, sbaglio? E di nuovo UDC, è così? Perfetto. Traffico, torno subito. Quando sigli la scheda elettorale, devi riflettere, non devi sbagliare. Se stai cercando coerenza ed onestà per te, mira bene e segna Skanderbeg. I valori, lo sai, non sono in vendita, servono fatti e pura lealtà. Riflettete bene, gente, è il momento. Giovani, anziani, siete stupidi, state al centro. E questo era il mitico rap, caro Parenzo, che Skanderbeg si è inventato. Fu una grande mossa per essere eletto al Consiglio regionale del Piemonte. Skanderbeg, ci sei tu, mira bene se speri in qualcosa in più. Passione, competenza, edizione. Caro Skanderbeg, qui nessuno vuole contestare nulla. Il problema è questo: vorremmo sapere, siccome quando lei fu intervistato qui alla Zanzara, sì, appunto all'inizio d'agosto, lei ci disse: beh, insomma, Berlusconi è stato sempre il mio punto di riferimento, anche per mia figlia, che è al Consiglio Comunale di Torino, abbiamo ospitato anche sua figlia, eccetera. Dunque, per me è sempre stato, come dire, un mito assoluto. Allora, la cosa che tutti vorremmo capire: che cosa è successo dal 4 agosto, 5 agosto, quando lei è passato al gruppo del PDL, che l'ha fatto tornare al gruppo dell'UDC? Guarda, perché è curioso, che cosa è successo? Nulla di tutto quello che ho detto nell'ultima intervista, ossia, per me Berlusconi è sempre Berlusconi, però a Berlusconi, cioè, è sempre un mito. Berlusconi è Berlusconi, quindi è uno dei leader principali che abbiamo a livello nazionale, insieme a Casini, insieme a Fini. Cioè, per lei è un idolo, ma certo, come tutti i leader a livello nazionale. Ho capito. E questi vale naturalmente per Casini e vale per lo stesso. Però Berlusconi di più. E rappresentano dei partiti. Berlusconi di più, dico. Espressioni del proprio partito. Sì. E ripeto, andando nel PDL mi aspettavo di ritrovare quello che avevo lasciato, ossia Forza Italia. In un momento lei non sapeva che non c'era più Forza Italia? Mi scusi, Skanderbeg, Forza Italia non c'è più da due anni. Ritrovare quello che io avevo lasciato dentro Forza Italia, un'organizzazione, un partito in cui si dibattessero le iniziative ma politiche. Ma lì c'è Berlusconi, Skanderbeg, che decide Berlusconi. I capogruppi che convocassero in qualche modo i propri parlamentari per discutere che cosa bisogna fare al Parlamento. Ma Skanderbeg, scusi, ma lei la segue la politica o no? È un partito basato sul carisma, su Berlusconi, in cui le procedure... Questo nell'UDC non accade. Ho capito, ma lei lo sapeva prima, non è che il PDL è nato ieri, Berlusconi è nato ieri, da 15 anni che è così. Siccome in quel momento lì pensavo anche, un po' anche con presunzione, che andando dentro il PDL potessi avvicinare sempre di più il PDL all'UDC, tanto è vero che mi sono fatto promotore in questo lasso di tempo di diverse iniziative, parlano le ANSA che sono state battute di un eventuale avvicinamento tra Berlusconi, cioè lei voleva fare il ponte, lei voleva fare il ponte portavoce di una ipotetica federazione in cui, ripeto, Casini ho capito Scandere, ma lei capisce bene che i problemi tra Casini e Berlusconi vanno oltre la mediazione di Scandere, perché lei lo capisce bene, no? No, io andavo giù nel Salento nel frattempo, avevo l'opportunità perché lei è di Gallipoli, di poter parlare con Casini e in qualche modo sono riuscito a parlare per telefono più di una volta e ho cercato di mettermi in contatto anche con Berlusconi. Tutto questo però non mi è riuscito. Certo che Berlusconi non ha bisogno di Scandere perché parlare con Casini, e viceversa Casini non ha bisogno di Scandere perché per parlare con Berlusconi ci mancherebbe altro. Ho capito, ma lei dice, lei oggi ha detto alla stampa, è un partito dove esiste solo il carisma del capo, cioè PDL. Ho capito, ma lei lo scopre adesso, Scandereberg? Ma io ripeto, ho lasciato una Forza Italia che non era così. Ma Forza Italia non esiste più, Scandereberg. Ho capito, io nel frattempo ho lavorato ininterrottamente 24 ore al giorno nell'interesse della gente, portando avanti sempre iniziative politiche nell'interesse della gente, eccetera, eccetera. Terenzo, aiutami tu. Si è visto un contributo importantissimo ha dato Scandereberg alla Scandereberg, si fermi un attimo, Scandereberg. No, dico che ha dato un contributo importantissimo, se lo ricordano tutti, l'onorevole Donato Scandereberg, da ovunque parlo di lui e del ruolo determinante che ha avuto nel far mettere insieme Casini e Berlusconi. Ma la cosa che più mi sconcerta è che in un'intervista a Repubblica oggi lui ha detto: il mio proponimento, idee chiare, barra diritta. Ma come idee chiare? Il mio professore di ginnasio direbbe Parenzo, poche idee ma confuse. Tutti gli italiani e chi ascolta la Zanzara in questo momento si domandano quanto resterà ancora nell'UDC, onorevole. Ma è facile ed è difficile capire quello che intende dire lei. Guardi, io sono una persona onesta. Quando faccio una cosa me ne assumo sempre la responsabilità. E questo ho capito, con la mia faccia la gente mi saluta e in qualche modo ha stima del sottoscritto, quindi io punto sempre al lavoro. Ma resterà ancora molto nell'UDC o ha intenzione di migrare? Questa domanda non merita risposta. Ma come non merita risposta? Diciamo, io cercherò di essere fedele, come sempre ho fatto, al mandato elettorale. Sono stato eletto nell'UDC a livello nazionale, a livello parlamentare, poi è passato col PDL. Risponderò agli elettori che mi hanno eletto in questo caso, e quindi in un momento delicato in cui ci sono dei problemi. Scusi un attimo, Scandereberg, le posso chiedere una cosa? Ho capito, le posso chiedere una cosa. Scandereberg, vendita vera o presunta di parlamentari, io non me la sento di far parte di questa compravendita. Ma lei è passato autonomamente, senza nessuna compravendita al PDL? In un partito che mi ha dato la possibilità di diventare parlamentare. Ho capito, Scandereberg. Scandereberg, perché per un mese e mezzo lei è stato nel PDL? Pronto? Perché per un mese e mezzo lei è stato nel PDL? Mica l'hanno perché costretta. Speravo, ripeto, di ritrovare il mio partito, il partito che avevo lasciato tempo, quello di Forza Italia, in un momento in cui avevo dei problemi territoriali. C'era una sentenza del TAR. Ho capito, questo lo sappiamo. Scandereberg, scusi un attimo. Scusi un attimo, Scandereberg, un secondo. Un po' disorientato, dovevo pure andare da Ma saranno disorientati. Ma come dove andava? Che non mi rappresenta. Ma restava nell'UDC perché lei è stato eletto con le liste dell'UDC, scusi. In quel momento non c'è stata la possibilità di dialogare con i dirigenti nazionali, non c'era e adesso invece ha dialogato con qualcuno. Diciamola tutta. Si fermi un attimo, come la mette? Si fermi un attimo, va bene, d'accordo. Io non mi metto mai in vendita. Va bene, capiamo. Di poter lavorare, l'UDC me lo dà. Ma lei si mette da solo. Si fermi, Scandereberg, si deve fermare un attimo. Non si ferma, non c'è niente da fare. Parenzo, che mi vuoi dire? No, io volevo dire, diciamola tutta. L'onorevole Scandereberg ha Scandereberg. L'onorevole Donato ha pescato il jolly perché Vietti è andato al CSM. Quindi già ha pescato il jolly da un mazzo di 52 carte. No, è pescato e gli è capitato quel jolly lì. Non solo ha pescato il jolly, aveva riconosciuto il lavoro. Vabbè, ma l'UDC a livello nazionale è contro la Lega. Lei ha eletto Cota ed è orgoglioso di aver eletto Cota. Come la mettiamo? Erano momenti diversi in cui ci sono state delle contrapposizioni politiche. Avevo svolto per ben 5 anni delle iniziative politiche come capogruppo in Regione Piemonte. Lo spot di Scandereberg voglio. Deodato, signor Deodato, grazie, buona serata, grazie. Arrivederci. Ciao, mi hai riconosciuto? Sono Skanderbeg. Skanderbeg, anch'io conosco già molti di voi, perché al centro della mia politica c'è sempre la gente. Il 28 e 29 marzo, in regione, sono candidato. Siamo qui 19:18 800 24 00 24. Partiamo subito con i titoli del TG3. Mi sono dimenticato di chiedere a Skanderbeg come voterà il 29 di settembre. Stiamo parlando di Deodato Skanderbeg, passato da Forza Italia, UDC, PDL e, come avete sentito pochi minuti fa, la Zanzara di nuovo UDC. Ma come voterà la fiducia il 29? Perché Berlusconi è sempre un punto di riferimento, però adesso è l'UDC che non dovrebbe votare la fiducia. TG3. Fini domani in un video messaggio la mia verità su Monte Carlo. Processo breve non è nel programma. Berlusconi non ha diritto all'impunità. La casa di Monte Carlo, il ministro della giustizia di Santa Lucia, in una conferenza stampa trasmessa dal giornale Il Fatto, conferma l'autenticità della lettera. Bossi sul presidente della Camera non possiamo più contare, ma il premier dice che ai numeri di Pietro se ne vadano a casa tutti e due. L'Italia è la crisi, non stiamo meglio degli altri, dice la presidente di Confindustria Marcegaglia, la politica pensi a crescita e occupazione. Disordine nella notte a Terzigno, dove sorge una delle discariche più grandi nel napoletano, danneggiati 46 camion compattatori. Il TG3 in Transilvania dal re dei Rom, il cuore dell'Europa si è allontanato da noi, le espulsioni sono un cattivo esempio che altri potrebbero seguire. Quando sigli la scheda elettorale devi riflettere, non devi sbagliare. Se stai cercando coerenza ed onestà per te, mira bene e segna Skanderbeg. I valori lo sai non sono in vendita, servono fatti e pura lealtà. Riflettete bene gente, è il momento. Giovani e anziani, siete stupidi, state al centro. Al centro con Skanderbeg ci sei tu. Mira bene se speri in qualcosa. Lorenzo, non so come la pensi su Skanderbeg, ma è comunque geniale questa. È geniale comunque questo rap, eh. È un talento l'uomo. Assoluto. Però ci siamo scordati di chiedere una cosa e per questo l'abbiamo richiamato, sì, a Skanderbeg, perché come sai, Parenzo, sì, ci sono i conti in atto, no? Cioè Berlusconi oggi, si è detto sicuro di arrivare a quota 340, pensa un po', addirittura 340. Altri dicono avremo una maggioranza ampia, anche la Russa, sono sicuro. Ora la domanda è questa, Skanderbeg. Lei il 29 vota la fiducia a Berlusconi o no? Non lo sa. Tanto premetto, io faccio parte di un partito che si chiama UDC. Lunedì ci vediamo e decideremo assieme in modo collegiale che cosa dobbiamo fare. Ma questo lo sappiamo. Mi sembra, da quello che ho capito, che l'UDC non vota la fiducia. Ho capito. Lei, se l'UDC non vota la fiducia, quindi io mi adeguerò a non votare la fiducia. Cioè, se il gruppo parlamentare dell'UDC dice no alla fiducia, lei vota no alla fiducia. Ci mancherebbe, faccio parte dell'UDC a tutti gli effetti, per cui voglio dire, io sono un uomo di partito, a tutti gli effetti, ma mi sembra dice, ripeto, la volontà popolare. Il momento in cui c'è in atto una compravendita presunta di parlamentari, questo è il vero motivo per cui mi ha indotto, ripeto, a tornare sui miei passi serenamente, trasparentemente. Potrebbe astenersi, magari si potrebbe astenere Skanderbeg, no, io sono un uomo di partito, quindi ma con Berlusconi lei ci ha parlato? Quale partito? Quindi come tale, se Casini mi dice di votare, voto, se Casini mi dice di non votare la fiducia, ho capito, lei con Berlusconi ci ha parlato in questi giorni? Però ci sarà, ripeto, un dibattito con Berlusconi ci ha parlato in questi giorni? Certo che ci ha parlato. E che cosa le ha detto? Ho spiegato le motivazioni per cui non mi trovo. E lui come ha risposto? E lui cosa vuole che mi risponda? Penso che sia consapevole che al di fuori del suo carisma e della sua leadership all'interno del PDL ci sia poco. Ho capito, ma cosa le ha detto? Era dispiaciuto? Cosa ha detto? Tanti generali senza truppe. O così, cosa ha detto? Era dispiaciuto? Ha detto, le ha offerto qualcosa per rimanere? No, non mi ha offerto niente. Mi ha offerto solo di rientrare nel PDL e lavorare, perché che avevo costruito durante l'estate. E lei cosa ha detto? Io avevo già assunto i miei impegni, cioè avevo svolto già. No, ma lei come ha risposto di fronte a Berlusconi? Sa, uno dispiace, dice: mi dispiace, umanamente mi dispiace, così come pure dispiace. Ma non le ha detto che può cadere il governo? Non le ha detto che può cadere il governo? Che sia lui che non faccia il possibile per parlare con Casini piuttosto che parlare con coloro che vanno via dall'UDC. Va bene, a parte Casini, eccetera, ma non le ha detto il governo è in pericolo, può cadere il governo? No, non siamo entrati nei particolari, ripeto, niente. Anche perché evidentemente aveva molta fretta, però ripeto, io sono un uomo di partito, forse. Ma quale partito? Così come ho votato, ripeto, guardi, ripeto, non ho paura delle mie azioni politiche perché va bene, ho capito. Mi dicevo per la strada oggi, ma ho capito. Solo persone che mi hanno fatto. Ma io non sono i tanti politici oggi che possono. Ma chi è che la conosce per strada? Skanderbeck? Chi mi conosce a me? No, a Roma. Ma guardi, le faccio un esempio. A Roma la conoscono. Le faccio un esempio. Dopo l'intervista che ho fatto proprio con voi, Radio 24, esattamente. Due mesi fa ho preso un tassista. Come sono entrato, stavamo andando proprio ad una cena lì, sì, dei parlamentari, eccetera. Questo è interessante. Questo tassista mi ha sentito che mi chiamavo Skanderbeck, mi fa: ma lei è Skanderbeck, complimenti. Ma forse questo devo dire anche grazie alla vostra notorietà. Questo è il trionfo della Zanzara, applausi. Skanderbeck, mi sa che la voterei anch'io dopo questa cosa. Grazie. 19:24. 19, no, per carità. 19:24, via. Sigla della Zanzara, via. Siccome si parla molto di familismo in queste settimane, pensa un ascoltatore che cosa chiede Parenzo. Parenzo è parente del noto Ubaldo Parenzo, famoso regista sportivo Rai? Ubaldo Parenzo, no. Mai sentito nominare. Mai sentito nominare. Disco categoricamente tutto, preparo un dossier sul radioascoltatore. Roberto da Firenze, buonasera, 800 24 00 24. Buonasera. Dica. Io volevo riallacciarmi al discorso sempre Fini, Tulliani, eccetera, eccetera, sì, eccetera. Sull'home page del Fatto Quotidiano c'è ben evidenziato la documentazione presentata dal sedicente ministro del piccolo Stato. Però lì la stamperia di Stato aveva detto che quel documento era falso. No, non ha detto, anche qui specifichiamo, non ha detto, ha detto ci sembra che non sia la stessa carta, poi qualcuno ha detto la stamperia dice che è sicuramente falso, non ha detto che è sicuramente falso, la stamperia, diciamo, di Santa Lucia aveva detto un'altra cosa. Si è riferita al font utilizzato per link internet che appare nel documento di sinistra e non in quello di destra. Ho capito, adesso io non so quanta credibilità abbia, credo di sì, il ministro della giustizia di Santa Lucia, forse siamo un po' razzisti da questo punto di vista, abbiamo, no Parenzo, siamo un po', prevenuti, non lo so, in ogni caso ha fatto una conferenza stampa, ha detto io quel documento l'ho fatto io, è così. L'abbiamo fatto perché ci sono i servizi segreti e i giornalisti qui a Santa Lucia, anzi i servizi segreti ha detto, ci dicono che ci sono anche uomini dei servizi segreti qui a Santa Lucia, la situazione non era più tollerabile, speriamo che se ne vadano tutti, questo ha detto. Cosa vuole che le dica? Di fronte al ministro della giustizia di un paese uno dice beh sarà vero, poi vedremo. Al di là della stamperia, il font, il carattere, magari ha preso i fogli da casa, non lo so. Cioè, Non lo sapremo mai, guarda. Non lo sapremo mai. Però di fronte alle affermazioni, le frasi di un ministro della giustizia di un paese, o uno dice questo è un buffone, oppure è il ministro della giustizia di Santa Lucia che dice che dietro quelle società c'è Giancarlo Tulliani, c'è poco da fare, no Parenzo, davanti a questo? No, sì, purtroppo questa logica stridente non si scappa. Il problema è che è tutta una farsa, cioè non è che abbiamo di fronte uno Stato, vuol dire, no, autorevole, di cui conosciamo tutto, è uno staterello che ha pochi più abitanti di Pavia, di una qualsiasi provincia italiana, di cui non sappiamo nulla, niente, sappiamo far parte del Commonwealth, che è l'unica garanzia che possiamo avere. Insomma, che non è poco, insomma, no? In teoria. Carità, no, ne sappiamo nulla, nulla di più, se neanche che faccia ha questo qui, prima era in Svizzera, parlerò tra una settimana. Personaggio curiosissimo, interessante. Va bene, Fabrizio da Milano, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Io volevo solo intervenire per dire che sono abbastanza basito dall'intervento dell'onorevole Skanderbeck. Skanderbeck, stia attento perché... Popolo della Libertà, UDC, Forza Italia, non si capisce bene, poi alla fine dove abbia militato, per quanto tempo sia stato in ognuno di questi partiti. Ad ogni modo, io volevo esprimere una mia idea, un po' se vuole come provocazione, però perché i media in Italia non cercano un pochino quello che c'è di buono nella politica e nei politici per aiutare magari gli italiani a scegliere delle alternative, perché sappiamo quello che fanno i politici che non vanno bene, no? Sì, ho capito. Adesso Fabrizio, prima di dare la linea alla borsa, voglio brevemente commentare questo suo intervento in questo modo. Cioè, non è che Skanderbeg sia il simbolo di tutti i politici italiani. È un politico di livello locale fino adesso che, come ha detto giustamente Parenzo, è stato una sorta di miracolato, perché Bietti ha pescato il jolly, perché Bietti è stato eletto al CSM ed è diventato deputato. Dopodiché si è iscritto per motivi spiegabili, o forse li conosce solo lui, al PDL, ed è tornato all'UDC dopo 10 giorni parlamentari, più o meno. Ma non è che va così per tutti, insomma, anche se c'è, è vero, una transumanza in Italia assolutamente... è una nostra specialità, insomma, assolutamente frequente, però insomma non tutti fanno come Skanderbeg. Se poi c'è da scandalizzarsi, magari non c'è niente di cui scandalizzarsi, non lo so. Borsa. Santa Lucia, lontana te, quanta malinconia. Se giro mondo sana, se va. Questa è la Zanzara, 800 24 00 24. I misteri di Santa Lucia. Lontana Napoli non si può stare. Mario Platero, la conosci questa canzone? Come no, certo, è bellissima. Santa Lucia tu ti. Uno dei miei pezzi forti. Beh, addirittura, questa canzone popolare napoletana. Certo. Ma sei all'ONU anche oggi? Multilingue. Sono tornato da una conferenza stampa del nostro ministro Frattini. Non sulla vicenda di Santa Lucia, immagino. No. Abbiamo parlato più di Iran, di Ahmadinejad, messaggi certo. Confusi che danno questi iraniani, Mottacchi, il ministro degli esteri, che dice sì, siamo pronti al negoziato, e poi Ahmadinejad, che quando Obama gli apre la porta dice: ma voi in realtà avete complottato per buttare giù le due torri. Cose serie, insomma, non queste cose di Santa Lucia. Ma senti, lo sai che c'è a Santa Lucia il tuo ex allievo Semprini, inviato dalla stampa? A Santa Lucia? Com'è la pronuncia esatta? Ecco, siamo tutti qua in attesa di capire da te la pronuncia. Santa Lucia. Santa Lucia, capito Parenzo? Noi siamo dei poveracci. Si impara sempre la Zanzara. Santa Lucia. Santa Lucia, sì. Santa Lucia. Adesso riproveremo, perché c'è stata una novità. Tu forse eri impegnato su cose più serie, appunto Ahmadinejad, le reazioni, Obama, eccetera, eccetera. La novità te le dico, così siamo in grado di fare... Dimmi. Naturalmente non lo beccheremo mai, però riproviamo come ieri, naturalmente. Certo. Il ministro pare che sia tornato dalla Svizzera a Santa Lucia. Santa Lucia, com'è la pronuncia? Santa Lucia. E ha detto: sì, il documento è mio, l'ho compilato io. Questo tipo di documenti viene messo quando il nome del nostro Stato viene citato in caso di inchieste o notizie giornalistiche. Raramente queste carte arrivano all'attenzione della stampa, ma in questo caso era giusto farlo. Non vogliamo che il nostro sistema economico venga danneggiato da vicende del genere. Il nostro governo aprirà un'inchiesta su questa storia. Non so proprio come questa mia dichiarazione sia finita nelle mani dei giornalisti. Comunque ha detto che il documento in cui si proverebbe che queste due società fanno riferimento a Giancarlo Tulliani è autentico, l'ha compilato lui. Questo ministro della giustizia, in una conferenza stampa durata 3 minuti, poi ha aggiunto, questo è abbastanza curioso, ha aggiunto che il nostro sistema di comunicazione ha dimostrato una chiara vulnerabilità, chiariremo l'accaduto, in ogni caso quella lettera è autentica. Insomma, questa è la situazione, con un confidential... Quindi doveva restare riservata, ma esatto. Cioè, lui ha scritto un confidential memo al primo ministro dell'isola, dicendo che Giancarlo Tulliani è il titolare, eccetera, eccetera, ma il tutto è stato pubblicato da due quotidiani domenicani e apriranno una inchiesta, Parenzo si metterà a ridere, chiarire appunto questa fuga di notizie. Chiamiamo l'inchiesta caraibica. L'inchiesta caraibica. Famosissima inchiesta caraibica. Caro Riccardo, dietro il vetro, mi chiami l'ufficio del ministro della giustizia? Così, grazie alla collaborazione di Mario Platero, che parlo. Dimmi, Mario. Il grande Semprini, Francesco, che come tu giustamente hai detto, mio vecchio. Aspetta un attimo. Si fa male a tirarli su, insomma. Ecco, Mario? Yes. I'm sorry, can we talk to the minister, please? Minister. Rudolf Francis. Hold on. Thank you very much. Capito? Yes, we're trying to reach Minister Rudolf Francis, please. Call him from New York. Lunch. At lunch, ha detto. Credo di aver capito. Yes, ah, capito, Mario? When is he coming back? I'm not sure. Digli se lo possiamo. Have you got the portable number for her? Have you got a cellular number? No, it's a rather urgent call that we're trying to make. I cannot give you his phone number. Would you be able to contact him and see if he can come on the line? I beg your pardon? Would you be able to call him up on his cellular phone and see if he can come on the line? No, I can't. Yes. Okay. When do you suggest we call back? In an hour? Maybe, yes. It's very kind of you. Thank you. Goodbye. You're welcome. E vabbè, giusto Mario, noi abbiamo questo contatto e insistiamo, dunque ti richiamiamo tra un po'. Se forse fra un'oretta. Forse fra un'oretta. Va bene, tornate. Mario Platero da New York con il suo inglese, diciamo, non sembra nemmeno un italiano, una roba incredibile. Quanta malinconia. Parenzo, hai capito? Sì, un'eleganza assoluta. Eleganza assoluta. Che cravatta ha oggi Platero? Keaton. Mario? Messo giù, giustamente, perché l'ho certo, salutato. D'altra parte fa l'inviato in America. Che scherziamo. Di un'eleganza quell'uomo. Ma è una cosa. Guarda, non riesco nemmeno più a parlare, ma guarda, lo dico sul serio, perché questa conversazione con Platero da New York, Ponte con Santa Lucia, il ministro è andato là for the lunch. For lunch, questo l'avevo capito anche io. Dopo anche la tu. Fatica della conferenza stampa. Dopo la fatica di una tre minuti di conferenza di stampa. Minuti di conferenza stampa. Una cosa spettacolare. Poi gli ha chiesto anche giustamente gli ha chiesto il coso, non essere razzista, mangiare qualche banana, questa è veramente no, una battuta di cattivo gusto, dai. No, è che se io sento Santa Lucia, mi viene in mente il dittatore dello Stato Libero di Banana, non riesco a pensare diversamente. No, ma la cosa più bella è stata. Consolato. No, certo, che esiste un consolato italiano di Santa Lucia, non credo. Sarebbe interessante, però, io lunedì farò questa ricerca a Roma, l'ambasciata di Santa Lucia. C'è una cosa che mi ha spettacolare dell'intervento. Giustamente Platero a un certo punto ha detto: mi può dare il suo portatile, il cellulare, giustamente, perché cioè, uno le prova tutte, no? E magari qualcuno, perché a Marco Lillo è successo questo oggi nel racconto, il giornalista del Fatto che è riuscito a rintracciare ieri, sì, Rudolf Francis. E lui ha chiamato all'ex studio, che forse dovremmo farlo all'ex studio di avvocato dove lavorava prima di diventare ministro Francis. Colpo di genio. Così dice Lillo, e poi naturalmente può anche averlo ottenuto in un altro modo. Comunque questo scrive, insomma, questo numero gliel'ha dato uno che stava uscendo dallo studio. Questo è il cellulare, tieni, una cosa bellissima. Stava per darglielo alla segretaria, hai visto che milioni di radioascoltatori della Zara avrebbero avuto il numero del ministro. Del ministro. Va bene, per 800 24 00 24, questa è sempre la Zanzara, e stiamo cercando di rintracciare a modo nostro naturalmente il ministro, grazie soprattutto e anche Telese ma tu è ore che cerchi di contattarlo, noi pure non ci riusciamo. Cosimo da Brindisi, buonasera Cosimo. Pronto? Dica. Sì, buonasera. Cruciani, una osservazione vorrei fare. Se la società che detiene la proprietà di questo appartamento è una società offshore, sì, quindi ho sentito in questi giorni che non si sa di chi è la proprietà, cioè la proprietà, le azioni sono al portatore, sì. È vero? Ho sentito questa... Non lo so, Cosimo, adesso azioni al portatore, sì, mi sembra ho sentito questa una cosa un po'... Quindi se sono al portatore, il proprietario potrei essere io, o potrebbe essere lei, o potrebbe essere pure Tugliani. Voglio dire, sono portatore. Cosimo, io non lo so, io so solo che oggi il ministro della giustizia di uno stato che appartiene al Commonwealth, Santa Lucia, come dice Platero, ha dichiarato che quella lettera è autentica, e in questa lettera c'è scritto che le società fanno riferimento a Giancarlo Tugliani, punto. Il resto non lo so. Cruciani, secondo me, voglio dire, qua stiamo parlando di le persone si possono comprare, cioè se io e lei facciamo un incidente. Questo è un altro discorso. Lei sta dicendo che il ministro della giustizia di Santa Lucia è stato comprato da qualcuno per dire quelle cose? No, Cruciani, io non ho detto questo. Ho detto semplicemente le persone si possono comprare. Vabbè, questo è così una Cruciani, se io e lei facciamo una cosa teorica. Sì, ma se io e lei facciamo un incidente a un semaforo, io passo col verde e lei passa col rosso, no? Sì. E ci sono, non c'è nessun testimone, io ho ragione, lei ha torto. Però se dopo due giorni lei, davanti al giudice di pace, mi presenta due testimoni che dicono no, lui è passato col rosso, non Cruciani, allora si ribalta la faccenda, no? Mi segue? Allora, Cosimo, però, al di là del rosso e del verde, insomma, mi sembra la questione sia un po' diversa. Il ministro ha spiegato che questa vicenda stava danneggiando, stava per la presenza di persone sull'isola, per l'interesse che c'era, stava danneggiando oltremodo Santa Lucia. Sì, non lo so se sia vero o no, questa è la sua spiegazione. E dunque ha deciso di mandare un memo interno al ministro, al primo ministro, spiegandogli com'era la situazione. Questo memo poi è finito, confidential memo, così ha detto, è finito nelle mani della stampa. Questa è la ricostruzione del ministro della giustizia. Cosa vuole che le dica? Cosimo? Certo, questa fuga di notizie magari sarà stata aiutata da qualcuno. Che dici, Parenzo? Insomma, qualcuno... Questo non c'è dubbio. Ma ora l'unico che può disinnescare tutta questa è Fini, bomba, è, questa Fini, è, Fini. È Fini. È Fini, non c'è nessun altro. Cioè, la cosa è questa: o dice, non può dire più Fini. Cerchiamo di prevedere una cosa: Fini non può più dire io non so chi siano i proprietari di queste due cose. No, deve dire solamente ho le prove per dire. Mio cognato, il fratello della mia compagna, non c'entra nulla, ecco le prove. Questo può fare. Potrebbe anche dire che non sa chi ha venduto, questo è legittimo, questo lo può ho dire capito ancora. Ma siccome quell'altro siccome un ministro o dice il ministro di Santa Lucia è un buffone, è un pagliaccio pagato da Berlusconi o non pagato da non so chi, oppure insomma delle due l'una, o replica queste cose oppure dice chi dovrebbe parlare è il giovane Tulliani, oppure dice il giovane Tulliani mi ha fregato, oppure dice il giovane Tulliani mi ha fregato, però che l'ha già mezzo detto in un'intervista estiva precedente, sbigottite, se non ricordo la parola esatta, no, ma è un comunicato in realtà, intervista lui, in realtà è curioso anche questo, no? Cioè, in questa vicenda Fini, che è uno che le conferenze stampa le ha sempre fatte in vita sua, ha sempre risposto eccetera eccetera, su questa vicenda però curiosamente ha fatto due cose: la prima volta una lettera al Corriere della Sera e poi da Mentana, poi è andato da Mentana, però su questa vicenda ha risposto per due minuti, tre minuti, la cosa che fa adesso è un video. Un video chiuso alla Berlusconi stile 94. Non sappiamo se video è intervista, però vabbè, insomma, cioè, non sappiamo se sarà un video credo che parlerà... o qualcuno del secolo, qualcun altro che lo intervista. Questo quello, non lo sappiamo. Quello puoi, perché tu hai queste notizie? No, non lo so, semino il dubbio. Vabbè, però se hai qualche notizia, diccelo. Però potrebbe essere. No, se lo sapessi te lo direi, figurati. No, no, magari il rapporto che intercorre tra di noi, te lo direi. No, no, magari è una cosa che sai e che vuoi. No, che ti ha detto qualcuno cui tieni e non lo vuoi dire pubblicamente. No, nessuno mi ha, ti assicuro che nessuno mi ha dato questa notizia. Però potrebbe essere un video, visto che sarà, io dico, ma ragiono, per paradossi, visto che sarà diffuso sul sito del Secolo d'Italia e su Generazione Italia, non ci vedrei nulla di strano se qualche giornalista del Secolo intervistasse Fini sulla vicenda. Però è un dubbio, è un, così, un'idea, magari... stupida, però. Sì, no, certo. Va bene, andiamo. Ascoltatori 800 24 00 24, Guido da Torino, buonasera. Buonasera, signor Cruciani. Dica. Senta, io le dico solo questo, che sono tutte risibili le scuse che adduce il presidente della Camera, il dottor Fini. Ma quali scuse? Fino adesso non abbiamo avuto né scuse ma né no, ma io non parlo dell'ultimo caso, ma non venga a dire che lui non sapeva che nell'alloggio ci abitava il cognato. Io per me sono tutte cioè, ha detto che è venuto ad apprenderlo successivamente, che è rimasto, non mi ricordo il termine esatto, sì, se è sbigottito. Ma sono tutte storie, perché lui, a lui non applicano il fatto non poteva non sapere. No, l'hanno applicato anche per qualunque persona. L'hanno applicato i giornali vicini al Presidente del Consiglio, comunque i giornali vicini al centrodestra hanno applicato anche a lui questo tipo di logica, cioè non poteva non sapere che in realtà in quell'appartamento era stato preso in affitto, insomma, non è proprio così. Trovo che tutta una cosa assurda. Se una persona normale si fosse trovata in una situazione del genere, avrebbe avuto la Guardia di Finanza subito al culo. No, ma scusi, lasciamo perdere il culo, eccetera. Ma ho capito bene quello. No, appunto, dice giustamente Parenzo, qual è il reato? Perché doveva esserci la Guardia di Finanza? Ma però la storia è quella lì. No, ho capito, un'inchiesta è stata anche avviata formalmente, sì, come sempre succede in Italia, no? Denuncia di parte. Non capisco nemmeno perché, tra l'altro. Parte, perché chi l'ha avviata ha interpretato la questione di fini circa il valore della notte e tutto, un po' come fa un nostro chansonnier di Torino, Gippo Farassino, che dice: ma che lì ha rubato anche il Tecà. Capisce? Ho capito, Guido, lei è molto simpatico, però non seguo molto il suo ragionamento. Grazie. Bruno da Roma, buonasera. Buonasera. Dica. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Io volevo fare Bruno, però spenga la radio, mi sembra che lei abbia la radio accesa, se non sbaglio. Chiedo scusa. Dica. Allora, volevo fare il mio intervento riguardante l'onorevole Skanderbeck. Sì, ma io credo non ci sia più nulla da dire su Skanderbeck, ha già detto tutto lui. Cosa vuole aggiungere? Con la famiglia, perché sono di origini salentine. Sì. E la famiglia è una famiglia di artisti. Non vorrei che l'onorevole abbia scambiato la politica come un teatro, insomma, ecco perché. Un attimo solo, Bruno, però mi sembra che abbiamo l'audio del ministro della giustizia, Rudolf Francis Parenzo. Sentiamo la voce, sono curiosissimo. La voce di Rudolf, si sente bene? Rudolf Francis, a voi dalla Zanzara. Was reliably informed that St. Lucia had been featured in a number of Italian newspapers as a result of some offshore companies with their registered offices in St. Lucia. As a result, the Prime Minister requested that I basically investigate the matter to determine if in fact there were any negative implications and negative consequences for St. Lucia. My preliminary investigations revealed certain facts and suspicions. Consequently, I wrote a confidential memo to the Prime Minister informing him of my preliminary findings. In the meantime, I have launched a formal investigation into the matter, the results of which will be made public at the end of the investigation. How a confidant to the Prime Minister of St. Lucia got in the hands of the press is a mystery. I can't explain it, but I'm investigating how a confidential memo got in the hands of the press. Such incidents merely highlight the level of vulnerability of our communication systems, things we in St. Lucia take for granted. Vabbè, sono tradotto, ma è abbastanza chiaro che sono le cose che abbiamo detto prima, no, Parenzo? Confidential memo. Confidential memo, com'è la cosa? Confidential memo. Confidential memo. Dice un po' come gli indiani quando parlano inglese. Vabbè, adesso, ma senti, stai dimostrando veramente, veramente sprezzante nei confronti di questi, di questo Santa Lucia. Comunque, in ogni caso, com'è confidential memo? Adoro lo slang. Com'è lo slang? A confidential memo. Comunque, la cosa spettacolare è questa qua, insomma, quello che sta succedendo a Santa Lucia, come dice Pratero. E come avete sentito è quello che abbiamo detto prima, non abbiamo avuto bisogno di tradurre perché non è il caso. Insomma, il primo ministro mi ha incaricato di capire se c'erano dei danni che potevano derivare dall'interesse dei giornali italiani, non solo, per questa vicenda. Ho inviato al primo ministro una lettera che doveva rimanere segreta e adesso indagheremo sulla fuga di notizie. Insomma, la sostanza è questa. 1951 800 24 00 24 Fabio da Novara, buonasera. Sì, buonasera Cosciani. Dica. Sono veramente bravo, io ti seguo da poco relativamente, però chiamo da Novara che è notoriamente un regno della zanzara, no? Quindi mi sento un po' zanzara. Cioè, no, Novara è pieno di zanzare? Sì, soprattutto d'estate abbiamo la fabbrica. Novara, il regno di Cota, Novara. Bravo, esatto. Dica. E di Scalfaro, allora, sì. Per quanto concerne l'intervento dell'onorevole Skanderbeg, io direi che purtroppo questa è la classe politica che non ci meritiamo, perché finché gli diamo la possibilità, con le regole che ci sono dati, di poter passare a destra, a sinistra, a centro, bisognerebbe che venissero considerati veramente dei servitori dello Stato. Quando vengo nominato, e vengo nominato in un partito, non posso permettermi poi di cambiare, come se cambio ditta dalla sera alla mattina, indipendentemente dal mio datore di lavoro, senza neanche chiedergli il permesso. Queste sono regole che devono assolutamente cambiare, e poi sono troppi. Quindi probabilmente chi li sceglie, visto che deve fare numero, ne sceglierà sulla quantità e tanti forse sono anche poco competenti e alla fine insomma... Guardi, secondo me la realtà che riguarda Skanderbeg è molto più non è troppo sofisticata come lei la sta mettendo. Cioè, Skanderbeg ha detto giustamente prima Parenzo ha preso un jolly, dopodiché in quel momento qualcuno gli deve aver offerto qualcosa, lo deve aver allettato. È stato al centro di grandi giochi. Sì, aveva aderito al PDL. La carne è debole. È tornato a settembre, si deve essere detto, ma che faccio, che non faccio, non lo so, che... Torno da Casini, così, un po' per divertirsi, un po' perché magari gli è convenuto così, non lo so, insomma, sono mattane di Skanderbeg, ma va tutto bene, insomma, è un po' bizzarro il passaggio in un mese, in 10 giorni di storia parlamentare, in realtà lui ha detto 2 mesi, ma quali 2 mesi? Cioè, il 4 agosto ha aderito al gruppo del PDL, in Parlamento siamo tornati da pochi giorni. Alessandro da Roma, buonasera. Buonasera, buonasera. Dica. Complimenti per la trasmissione. Volevo soltanto, diciamo così, esprimere il mio disappunto per il fatto che tutte le ormai giornali, trasmissioni, Santoro e quant'altro, alla fine si sta puntando sempre più l'attenzione su questo discorso di questo appartamento che, indipendentemente dal fatto che questo documento di Santa Lucia, del governo di Santa Lucia, sia vero o falso, qualcuno dovrebbe a un certo punto... diciamo così, domandarsi per quale motivo, diciamo, anche se fosse falso il documento, come mai il cognato di Fini, guarda caso, proprio quell'appartamento è andato ad affittare. Ma ad ogni buon conto, sorvoliamo. La cosa dove si dovrebbe porre maggiormente l'attenzione è il fatto, come è stato rimarcato nei giorni scorsi, perché la suocera di Fini, a tramite, credo, se non ricordo male, una società, lei casalinga, è tra i fornitori della RAI. Perché il cognato di Fini è tra i fornitori della RAI? Su questo si dovrebbe focalizzare l'attenzione, perché penso che il fatto che un collegamento fra il cognato di Fini e questo benedetto appartamento, suo o non suo, comunque sia, c'è, e questo è dato per scontato. Ma su queste sono... Lei dice è più grave la vicenda della RAI, ma ne abbiamo anche parlato, ne abbiamo anche parlato qui alla Zanzara, non solo alla Zanzara, Libero soprattutto ci ha puntato in questi ultimi mesi. Però sa, sulla vicenda della RAI si può anche dire così fanno tutti. È vero che Fini si è autoeletto a puro, no? E comunque ha fatto della legalità la sua bandiera, ma insomma i traffici e i rapporti tra Alleanza Nazionale, l'ex Movimento Sociale e la RAI sono noti a molti addetti ai lavori. La ringrazio Alessandro. Abbiamo un collegamento con il senatore Giampaolo Vallardi della Lega Nord, buonasera. Buonasera a tutti. E anche sindaco di Chiarano. Dove si trova Chiarano, Vallardi? Ma Chiarano si trova in provincia di Treviso, Veneto. Veneto. Senta, lei cosa vuole fare? Vuole, lei dice l'inno italiano va bene, però purché non ci siano le parole? Ma come è possibile? Io credo che questa notizia si sia divulgata in maniera un po' distorta. Ma come distorta? Come al solito, non mi faccia discorsi che fanno tutti i politici. Io volevo... e ho solo inaugurato un asilo, un ex asilo che è stato trasformata in residenza socioassistenziale con un investimento di oltre 3 milioni di euro. Non ha messo il sole delle Alpi lei là in questo asilo, no? No, non serve il sole delle Alpi, qui sono leghisti anche senza il sole delle Alpi. Chi è leghista? Il problema è chi nato è leghista, dal fatto dice? Che all'inaugurazione... Sì. E quando si è stato intonato l'inno di Mameli, suonato tra l'altro... da una bambina rumena di 10 anni che è perfettamente integrata nel nostro comune, sulle note del violino abbiamo ascoltato le note senza cantare la canzone. E allora? E da là è nata un po' di polemica da parte di qualche giornale che dice che effettivamente le parole andavano cantate. Ma mi scusi, che mi... io ho risposto... Non avete cantato perché non sapevate le parole? Cosa? No, dico, non ha cantato perché non sapeva le parole o perché era previsto dal protocollo? No, le parole noi le conosciamo fin troppo bene, è che quando si arriva a dire che siamo ancora schiavi di Roma... Non che piace. Ma quella è una cosa storica, non c'è un riferimento all'attualità. Lo sappiamo, perché le Porga, la Chioma, la Vittoria, sarà di Roma, appunto, dell'Italia. No, lo sappiamo tutta la storia, la genesi, però... Certo. Ci viene difficile da pronunciare questo. Cioè è impronunciabile quella, l'inno italiano secondo lei è impronunciabile? No, ma non dobbiamo distorgere i concetti, io credo. L'inno è un qualcosa che deve sborgare dal cuore, deve uscire, uno se lo deve sentire di cantare, deve unire un popolo. D'accordo, a lei le sgorga dal cuore. Gli americani sono tutti uniti intorno al proprio inno. Ok, lei le sgorga intorno a... benissimo. Lei lo sente suo questo inno oppure no? Ma con queste parole sinceramente non lo sento, ma non mi vergogno di dirlo assolutamente. Ma scusi, io che differenza c'è? Nel 2010 un paese civile non deve ancora parlare di schiavitù, che sia anche una reminiscenza storica, che sia un riferimento storico di qualsiasi livello, e poi qua lo sappiamo che... Ma mi scusi Vallardi, le parole sono quelle. Le parole sono quelle. Possiamo chiamare Mameli e cambiare l'inno. L'inno è di Povia, amico mio. Povia qua. Cioè, non è qui, non è Festival di Sanremo, capito? Cioè, ma Mameli scrisse le parole, la musica la fece un tale Michele Novaro, intanto dobbiamo anche fare, bene, dobbiamo visualizzare la storia. Cambiare le parole, però. No, d'accordo. Ma siccome le parole non si possono cambiare, quello è l'inno italiano. Lei non può dire siccome quelle parole per me sono impronunciabili, allora l'inno va nella Costituzione. Nella Costituzione italiana non c'è l'inno, ok? Ci sono alcuni disegni di legge da parte di alcuni onorevoli senatori che tendono a far mettere l'inno nella Costituzione. Io credo che potrebbe aprirsi un dibattito, capire anche quale può essere un inno sentito e che unisce tutto il popolo italiano. In questo momento alcune persone, ma mi sembra lo si sia visto anche in TV, non tutti lo cantano volentieri. Non tutti lo cantano volentieri. Di questo. Non tutti lo cantano volentieri. Che volevi dire, Parenzo? No, dico sindaco, io non aprirei adesso un dibattito parlamentare sulle parole dell'inno d'Italia. No, abbiamo facciamolo cose più importanti, Sanremo, abbiamo cose più importanti da pensare, abbiamo il lavoro, ma mi sembra che ci stiamo dando da fare. Tra l'altro, schiava di Roma, tra l'altro sindaco. L'abbiamo cantato all'inaugurazione di una struttura di oltre 3 milioni di euro, quindi credo che non però mi scusi sindaco, stiamo pensando a cose importanti. Allora, siccome schiava di Roma non è l'Italia ma la vittoria, lei sa benissimo, no? Sì, lo so. Allora, canti con noi, com'è Parenzo? Che schiava di Roma. Schiava di Roma. Canti pure che lei che ha intonato. No. Dai, canti anche lei, Vallardi. No, come no? Ma guardi che non c'entra niente la schiavitù. La schiavitù non c'entra niente in questo caso. Lo so, è riferita alla vittoria, me lo canti. Ma non possiamo parlare di schiavitù nel 2010. Siamo ma non c'entra niente. Ma pensiamo di essere democratici, ma parliamo di schiavitù. Ma ho capito, ma quella è la canzone, questo è l'inno. Se è così, se lo becchi anche lei, altrimenti faccia di tutto. Ma non è che può cambiare la sua trasmissione. Lo so, si diverta con noi, canti con noi schiava di Roma. Ma canti lei che mi diverto lo stesso. Ma lo cantiamo in Veneto insieme. Lo chiamo in Veneto insieme. In Veneto. Cantiamo il Piave, che è molto più bello e suggestivo. Il Piave, se lei cosa lo conosce. Lei cosa propone, per esempio? Cosa metterebbe al posto dell'inno italiano? Io proporrei che possiamo tenere la musica e cambiare le parole. Ma non si può, ma non è ma non si può fare, non si può fare. Ma in alternativa cosa propone lei? Un altro inno, per esempio? Cosa le piace di più? Ma no, ma andrebbe bene questo, cambiamo cambiamo quella parte. Ma come cambiamo le parole? Mameli! Cambiare non si può. Comunque lei vorrebbe un inno senza parole. Ma perché non si può? Un inno ma non si può fare, su. Ma non è il Festival di Cena, non è che adesso possiamo metterci a comporre una canzone, la facciamo in questo modo. Appunto, la canzone era così, appunto, e così. Appunto. Vabbè, non c'è niente da fare. Su questo concetto non riesco a convincerla, Vallardi, che non si è può. Come dice che cambiamo la Traviata, questa è una cambiata Traviata. Come possiamo cambiare una grande opera, cioè non è che uno può cambiare una parola, dice no, questa non mi piace perché c'è un riferimento, cioè la cambiamo. Non si può, no, Vallardi? Abbiamo dice Yellow Submarino, mi piace il sottomarino giallo, cambiamo. Che non vuole fare. Vabbè, niente, ma oltre a questa, la sua canzone preferita, quella che lei vorrebbe come inno, qual è? Io credo che nel Veneto tutti quanti ci mettiamo la mano sul petto quando cantiamo il Piave. Il Piave, che il Piave mormorò? Non passa la strada. Non passa quella? Che pure è bella nazionalista, però, non è solo. Ma quella è la storia, la nostra. Quella è la storia. Adesso, dopo l'intervallo, la metto per lei, Vallardi. Però resti con noi, Non mi saluti. 21 minuto 800 24 00 24. La lettera su Tulliani è autentica. Il ministro della giustizia di Saint Lucia conferma. È vera la missiva che indica Giancarlo Tulliani come titolare della società offshore proprietaria della casa di Monte Carlo. E domani la verità attesissima di Fini in un videomessaggio sul web. Il presidente della Camera risponderà sulla casa di Monte Carlo in mattinate sui siti di Generazione Italia e del Secolo. E dopo la conferma di St. Lucia, il presidente della Camera si deve assumere le sue responsabilità, chiedendo scusa agli italiani, dice il portavoce del PDL. Vedremo anche tutte le altre reazioni, compresa quella di Bocchino. È falso che l'Italia stia meglio di altri paesi. La Marcegaglia contesta l'ottimismo di Palazzo Chigi. Per il presidente di Confindustria la politica del governo è contraria al mercato. Per Brunetta è vero assolutamente il contrario. Napoli torna la guerra urbana dei rifiuti. Roghi, scontri tra cittadini, antidiscariche e polizia. Camion scortati dalle forze dell'ordine e il centro della città invaso da tonnellate di sacché, come 2 anni e mezzo fa. Maggioranza allo scontro frontale con Santoro sul caso Monte Carlo. In onda ieri è stato un processo al Premier senza contraddittorie, con una sentenza già scritta. Masi porta il caso al Consiglio di amministrazione della RAI. Il PM mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. Muti passaron quella notte i fanti, tacere bisognava andare avanti. Senatore Vallardi, le piace questo? È una bella musica, no? Meglio questo dell'inno italiano, dice lei, no? Quindi la bellezza è scritta, giusto? Come, scusi? La bellezza, concetto scritto. No, la sentiamo male perché mi sa, il suo telefonino va e viene, il collegamento. Comunque lei dice meglio questo. Devo dire, se mi sente ancora, che alcuni ascoltatori dicono, per esempio, per l'inno russo hanno cambiato le parole dopo la caduta dell'Unione Sovietica. Anche in Germania hanno cambiato le parole, però quando ci sono stati dei fatti storici, Parenzo, rilevanti, qui ma non è certo, che... clamorosi. Certo. Vogliamo mettere la caduta del muro o la fine dell'Unione Sovietica con il sole delle Alpi, con tutto il rispetto, è una cosa un po' diversa, no? Che poi la Lega abbia ragione sul fatto che esistano due Italie, la questione dei rifiuti a Napoli lo dimostra, è una non c'è cosa. Dubbio, io sono il primo a dirlo, figuriamoci. Ma io lascerei da parte le baracconate sull'inno, sul cambiare le Ballardi parole. Sono un po' delle baracconate queste, mi sembra. Solo un po' ho detto, tra l'altro. No, perché avevo il telefono, ma baracconata sarà quella che mette in evidenza che c'è una parte d'Italia che non funziona, io credo, o quelle che sta dicendo questo signore. La realtà è la fotografia del nostro paese, quella che si vede ogni sera sui telegiornali. Ma stiamo dicendo che è così noi, non stiamo dicendo il contrario. No, perché era andata via la linea, mi hanno richiamato. No, ho detto che è una baracconata la questione di cambiare le parole all'inno. Quella sì, Vallardi. Ognuno è libero di esprimere i concetti che ritiene opportuno. Noi non critichiamo chi l'inno lo canta, credo che siamo in un paese democratico, libero, e quindi non capisco perché qualcuno critica noi, perché non ci sentiamo identificati in un concetto di schiavitù ancora nel 2010. Che schiavitù, dai. Ma quello non c'entra, è la vittoria. Non si può dire che quell'inno contiene la parola schiavitù. Siccome contiene la parola schiavitù, ora eliminiamo, che ne so, tutte le opere che hanno il concetto di schiavitù. Che significa? Ma guardi, io credo che la forza delle parole sia devastante. Lei credo sottoscriva con me questo. Avere in un inno nazionale ancora il concetto che siamo schiavi di qualcuno, mi sembra, poi di Roma, che per noi. Ma non è la vittoria là, non è Roma. E questo l'abbiamo già sottolineato. Ho capito, lei dice Roma invece. Ma guardi. Io credo che se andiamo a verificare a fondo quello che voleva intendere Mameli, probabilmente avete ragione. Io credo che non sia più attualizzato quelle parole al giorno d'oggi, no? Allora, fermo restante il concetto, che dobbiamo tutti quanti identificarsi in un inno, perché dobbiamo unirci, stare assieme, questo qua credo che sia ormai un concetto consolidato verso un federalismo solidale. Dobbiamo trovare anche un inno nazionale che ci leghi e che ci coinvolga tutti nella stessa maniera. Questo noi non lo sentiamo. Cosa facciamo? Un toto nomine. Che facciamo? Come facciamo a fare un nuovo inno, Vallardi, secondo lei? Un sondaggio. Ci sono tanti disegni di legge che tendono a inserire nella nostra Costituzione l'inno di Mameli. Ne faremo uno con un nuovo inno. Ma come? Chi lo decide questo inno? Povia, lo dibattito parlamentare, come sempre. Un dibattito parlamentare per l'inno. Lei si rende conto che un dibattito parlamentare per l'inno sarebbe una cosa, cioè, ci riderebbe dietro tutto il mondo. Quando abbiamo risolto le cose più importanti che stiamo affrontando adesso, quando non avremo nulla da fare, ci occuperemo anche dell'inno. Vabbè, lei sta dicendo che ci vuole un dibattito parlamentare. Benissimo. Vabbè, senatore, buonasera, grazie. Grazie. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. 20 e 10, Zanzara parti, via. Roba da matta. Zanzara parti. Questo invece è il nostro inno, pubblicità, poi torniamo con gli ascoltatori che aspettano, naturalmente Mario da Milano, Giovanni da Milano, Giuseppe da Torino, Marco da provincia di Lecco e forse, forse Luca Telese, che sarà tornato dopo l'ennesima giornata passata dietro i Finiani, al fatto. Siamo qui 20 e 14, Italo Bocchino è in collegamento con il telegiornale della 7, sentiamo. Conti di Lavitola, lo abbiamo sentito prima intervistato, ora dice non è una, non era una patacca, avete visto che non era una patacca. No, guardi, oggi... direttore, la patacca, attenzione, noi abbiamo sempre detto che potevano essere due tipi di falso: il falso materiale, che era finto, tutto scritto, inventato, e il falso ideologico, cioè che è una patacca quello che c'è scritto dentro, sempre una patacca è. E poi la Vitola, dal comunicato già di ieri sera, non è che nega di essere stato attivo nel Centro America, non è che nega, anzi dice mi sono affidato a dei freelance, forse sono stato imbrogliato da due giornalisti domenicani, quindi le nostre notizie sono certe e fondate. Ma secondo lei c'è un burattinaio sopra la Vitola ed è quello che tutti possono immaginare? Ma guardi, io la Vitola lo conosco bene da molti anni, quindi voglio dire, è evidente che non lavorava per sé, aveva già dato una mano in un'altra occasione, in occasione della caduta del governo Prodi, insieme con Sica, per questa ragione gli fu proposta la candidatura alle europee. Lo sa che è smentito dal PDL tutto questo? Quello che lei, guardi, ha detto. Io ero al tavolo delle candidature e nel 2009 ci fu chiesta la candidatura nella circoscrizione del sud di La Vitola. Non era possibile al sud, si propose il centro alla Vitola che rifiutò. Quindi voglio dire, è documentato in tutti i brogliacci delle liste che preparammo per le europee. Quindi, cosa dirà domani Fini, secondo lei? Sentiamo. Dirà le stesse cose che avrebbe detto 24 ore fa o cambia la linea di difesa o di contrattacco? Dirà le stesse identiche cose, perché quello che è accaduto oggi non cambia i due elementi. Il primo è che Fini ha la certezza e quindi voglio dire... Ma perché ha la certezza? Cioè, alla certezza, scusi, alla certezza di non essere lui. Io non sarei in grado di garantire per nessun altro che per me stesso, se non per amore o per affetto. No, lui dice di avere la certezza. Se dice di avere la certezza, dato che io lo conosco da 25 anni, non mi sembra né uno sprovveduto né un kamikaze. E quindi se ha la certezza che la proprietà non sia di Giancarlo Tulliani, ribadirà questo spiegando la vicenda della casa di Monte Carlo, ma anche un'operazione mediatica e di dossieraggio. Non dobbiamo mai dimenticare che cosa è successo. È successo che un anno fa, dopo il caso Boffo, Fenti scrive un editoriale. 20 e 17, la situazione è questa. Nella parte che non avete ascoltato, Bocchino dice... una cosa un po' curiosa, cioè nella lettera del ministro della giustizia di Santa Lucia di cui si sta parlando, in realtà non c'è scritto che le proprietà delle società sono da ricondurre a Giancarlo Tulliani, ma che c'è un'indagine in corso. Ora, a me pareva di aver capito il contrario, però c'è il traffico. Torniamo subito perché abbiamo trovato finalmente Telese. 20 e 19, 800 24 00 24, Luca! Eccoci! Dove sei? Dove sei stato? Di nuovo a De Finiani? Nella fabbrica dell'informazione, nel media che ha orientato tutti i giornali in questi giorni, al Fatto. Ah, sei rimasto al Fatto? Tutto questo. Ho notato una cosa molto divertente, che praticamente tutti quelli che devono sostenere una tesi, o per difendere Fini, o per attaccarlo, prendono le notizie del Fatto come pretesto. Quindi vuol dire che siamo un po' bravini, ecco. E dunque? No, e quindi il problema è esattamente questo. Noi abbiamo dato tutte le notizie, non quelle che ci facevano comodo o quelle che non ci facevano comodo. Vabbè, questo... E più dai notizie, più dai informazioni, questa vicenda diventa complessa, intricata, difficilmente spiegabile. Ora, le parole... Io, la mia sintesi, la mia sintesi di oggi, la notizia te l'avevo preannunciato ieri, la notizia è vera e il ministro è finto, perché come è ministro un po' è finto. Attaccare a questa, ma sì, no, è sicuramente un ministro nelle sue funzioni, ma di un governo che è grande come, che so, un condominio, e in cui praticamente questo ministro di uno Stato che ha un unico valore, che è la riservatezza, ci tiene a diffondere un documento che viola la riservatezza. Sì, ho capito. Allora, cosa ha detto il ministro? Ha detto una cosa, magari uno magari si può pensare che sia tutto inventato, eccetera. Cosa ha detto? Ha detto: la lettera l'ho firmata io. Poi Bocchino ci dice che all'interno non è vero che si dice che la proprietà è riconducibile. Ma queste sono balle, la lettera dice quello. Esatto. La lettera l'ho scritta io perché me l'ha chiesta il primo ministro di indagare su questa vicenda. Sì. Questa lettera doveva rimanere confidenziale, invece è arrivata ai giornali domenicani. Ma qui c'è già un primo problema. Allora, abbiamo spiegato, lo ha spiegato Libero, un pezzo magistrale di Bekis, che queste società offshore sono in realtà dei libretti al portatore. Chi ha in tasca il libretto senza nessun'altra traccia ha in tasca la società. Cioè non si può dire che dice. No, l'ho letto in un pezzo di Bekis, allora? Come dire, il pilastro è l'offshore. Allora, evidentemente era abbastanza difficile che un ministro insediato da 24 ore, perché ho due giorni, lasciamo perdere 24 ore. No, in 24 ore è riuscito a, come dire, forzare questo sistema di sicurezza che è il pilastro del paradiso fiscale. E allora perché scrive quelle cose in questa lettera? Che lui dice essere stata scritta da lui e dunque autentica. Perché ha scritto quella roba? Perché ha scritto il nome di Giancarlo Tulliani? Questo è il punto. È questo che mi colpisce. Cioè, no, ho capito. O pensiamo che dietro ci sia tutta una costruzione di cui fa parte, però anche una macchinazione di cui fa parte anche il ministro della giustizia di Santa Lucia, oppure dobbiamo credere al ministro della giustizia di Santa Lucia. Oppure... Scusami, ma io ti sto dicendo che noi chiamiamo il ministro della giustizia di Santa Lucia, una cittadina di 140.000 abitanti e più grande, stiamo parlando come di un assessore di un comune di provincia, non è De Gaulle, è il ministro del governo di Santa Lucia. Tra l'altro, per smentire un po', San Marino ha una forma statuaria, un ordinamento istituzionale molto più serio. Non credo, so che sarà politicamente scorretto, ma io faccio allora ti faccio il mio ragionamento. Io penso che è possibile che Elisabetto Tulliani sia il proprietario dell'appartamento, è il convincimento che mi sono fatto io, poi magari domani finisce smentisce, però questa cosa non si può provare, però si può fare pressioni su un governicchio amico che ti fa il piacerino e fargli tirare fuori una cosa verosimile, anche se non vera, che dice una cosa che è vera e che costringe Fini a uscire allo scoperto, cioè a confermare o smentire. Bocchino questa sera, capito, Bocchino questa sera... Io una cosa verosimile, chiedendo un piacere, no? E questa cosa costringe Fini a... Ho capito, un attimo, il sindaco di Treviso... Fini non voleva parlare. Un attimo solo, il sindaco di Treviso è ancora sulla questione degli inni. A livello anche di inaugurazione di un negozio, eccetera, io credo che non sia opportuno andare a disturbare i nostri vari inni. E già l'appello varca al confine, arriva in Lombardia, dove oggi a Curno, vicino a Bergamo, in consiglio comunale, la proposta del PDL di affiggere il testo dell'inno di Mameli nelle scuole è stata osteggiata dalla Lega con queste parole: l'Italia non esiste, è solo sulla carta. Stesso episodio solo poche settimane fa in un altro comune, sempre vicino a Bergamo. Cresce così il numero delle azioni dirompenti della Lega nelle regioni del nord. L'ultima arriva ancora da Adro, dove lo stesso sindaco che ha riempito la scuola con centinaia di simboli... Abbiamo sentito prima dal senatore Vallardi la questione dell'inno. 800240024, vorrei chiamare in causa un ascoltatore, Giovanni da Milano, buonasera. Carissimo, buonasera. Dica. Dunque, io ho assistito ieri, stranamente perché non è la mia trasmissione preferita, ad Anno Zero, e ho visto i due documenti, diciamo così, di riguardanti Fini, la cosiddetta ipotetica patacca e il cosiddetto documento vero, se non ho capito male, e credo che la patacca sia una patacca, ma lo si capiva da un punto di vista grafico. Ma scusi, come ha fatto? Patacca e documento vero, che significa? Allora, c'è uno dei due documenti, quello di sinistra, che ieri è stato diciamo pubblicato a video in televisione, aveva l'indirizzo email di questo governo scritto in blu. Scritto in blu significa che quel documento è stato fatto in Word. Sì. E il creatore di quel documento, inavvertitamente o meglio usualmente, è poi andato a capo per redigere il testo. Sì, però adesso Giovanni, io credo che su questi documenti, sull'origine di questi documenti online in una trasmissione si può dire tutto e il contrario di tutto. Il punto è uno solo. Oggi c'è stata una conferenza stampa di un ministro di uno Stato che non è uno Stato fantasma, non è uno Stato, fa parte del Commonwealth, poi ha ragione pure Telese quando dice che è uno Stato piccolo. che ha fatto della protezione del suo paradiso fiscale un punto di forza, ma è comunque un ministro della giustizia di un paese riconosciuto dall'ONU, eccetera, eccetera, il quale ha detto: io ho scritto quella lettera, doveva rimanere privata. E questa lettera invece è finita in mano ai giornali. Adesso faremo un'inchiesta per cercare di capire come mai. Tra l'altro, in questa lettera c'è scritto: a un certo punto il beneficiario e proprietario della società è il signor Giancarlo Tulliani, che ha dato mandato per conto della società di utilizzare i servizi di Jason Sam e Corpac Service USA, eccetera, eccetera. Per cui anche la cosa che diceva Bocchino. Dopodiché abbiamo ascoltato Bocchino, il quale diceva: domani Fini dirà che Giancarlo Tulliani con questa società non c'entra nulla. Non so in che modo lo dirà. Giovanni, la ringrazio. Dove andiamo? No, c'è una seconda cosa importante. Dica. La sfido a indignarsi, lei che non si indigna mai. Pronto. Io sono convinto che lei si indignerà. Pronto. Ed è un teaser il mio, la risoluzione di questa simpatica vicenda che le propongo e le offro la potrà dare agli ascoltatori lunedì. Io credo che nessun uomo di buon senso investirebbe in Italia in questo momento 30 milioni di euro, ripeto 30 milioni di euro, e parlo di documenti pubblici pubblicati che adesso le dirò dove potrà recuperare. Nessuna persona di buon senso in questo momento, dicevo, spenderebbe 30 milioni di euro per una iniziativa di carattere, diciamo pure culturale, riguardante una nemmeno minoranza, una super minoranza etnica che vive, diciamo, nel nostro paese, quando abbiamo dei problemi giganteschi. E penso che 30 milioni di euro possano, per esempio, dicendo una cosa banale... Non ho capito assolutamente nulla, Giovanni, cosa si riferisce? A destinarli all'Aquila. Ecco, vengo al discorso. Lei si faccia un giro sul sito del Ministero dei Beni Culturali, guardi quali sono gli appalti e i bandi che scadranno il 30 di settembre e poi si risponda a una domanda: per 35.000 persone lei investirebbe oggi 30 milioni di euro per un'iniziativa culturale o destinerebbe 30 milioni di euro a 300? Sì, ma lei non può rimanere nel vago. Chi sono destinati questi 30 milioni di euro? Chi sarebbero destinati questi 30 milioni di euro? Agli ascoltatori. Come, scusi? Lunedì potrà rispondere agli ascoltatori. Cioè lei sta dicendo c'è un bando che scade il 30 settembre in cui si danno 30 milioni di euro per che cosa? Per assistere 35.000 persone? No, per una iniziativa culturale che riguarda 35.000 persone si stanno per spendere 30 milioni di euro appartenenti ai cittadini di questo paese che sono straconvinto vorrebbero destinarli dovendo... No, quello l'ho capito. Fino a 300.000 persone che potrebbero per esempio esserli abruzzesi. Lei si faccia un giro online sul sito... Adesso che me l'ha detto lo farò e vedrò che cosa scade alla fine di settembre con l'importo di 30 milioni di euro e a chi sono destinati questi 30 milioni di euro. La ringrazio. Andiamo avanti con gli ascoltatori. No, borsa 800 24 00 24. Bene, 20:35, 800 24 00 24. Noi respiriamo di informazione, vogliamo sempre più informazione, anche perché in questo modo possiamo pizzicare, succhiare le dichiarazioni, gli audio, gli scontri nella politica italiana. E dunque, insomma, il fatto che Luca Telese da quando è? Da domani, Luca? In onda, ritorna in onda. Con una puntata in cui vi visionaremo la video, guerra che si pronuncia domani, certo. Perché secondo me mi ci giocherei, come si dicevano Fini Moretti, non tutte e due le palle, ma mezza sì, che al video di Fini che esce domani mattina sul sito del Secolo Italia risponderà entro il giorno Silvio Berlusconi, che non gli può lasciare il prime time. No, certo, non c'è dubbio. Senti Luca, ma dunque domani la prima sfida a Fabio Fazio da parte di In Onda, perché questa è una sfida vera. Fabio inizia la settimana dopo, quindi è vero, domani è la settimana dopo. Raduniamo le truppe per prepararci. Però la sfida è quella, diciamo la verità. Sì, spezzare le reni al politicamente corretto, non se ne può più. Che bello, basta. Spezzare le reni al politicamente corretto di Fabio Fazio. A me piacciono queste sfide. Quando Fazio fa quelle interviste, gne, tu sei fantastico, sei bellissimo. No? A tutti poi così. Io credo che mai, cioè se mi vedete con la lingua così di fuori, pericolosamente amputatela voi zanzaristi, se mi rimbecillisco. Ecco, ma io ti vorrò sempre bene lo stesso, anche se ti rimbecillisci. No, No, tu devi sorvegliare. No, io noi non sono. Stiamo cercando di comunistizzarti. È un comunista, fa vigilanza rivoluzionaria. No, ma io invece, siccome io non arriverò mai a fare la vigilanza rivoluzionaria, perché comunista non sono stato e non sarò mai, io, anche se ti vedrò come hai detto tu, slinguazzare, un po' morbido, soft, sorridente, eccetera. Ti vorrò bene lo stesso, perché andiamo di nuovo su questa ciccia, cioè in realtà noi siamo. Senti Scalfari, Scalfari era in diretta dalla Gruber o no? Insomma, si può registrare, tu che sai le cose. Stesso, allora sentiamo che dice su questa vicenda. Il famoso appartamento. Naturalmente questa è molto contraddetta da Fini e dai finiani, perché loro dicono non fa vedere i documenti, li faccia vedere. E poi dicono che lui. Vabbè, comunque Scalfari non sa niente di queste vicende, adesso per carità, Satana è un maestro assoluto. No, che... è una lista importante. Sì, sì, no, adesso sarebbe. Però troppo... sai, più la scavi questa storia, io mi sono convinto di questo, capisco che è paradossale. E uno dice: ma come pensi che ce l'abbia Elisabetto e allora perché critichi il documento e il ministro? Lo critico perché se l'onere della prova, come per usare una frase di Bocchino, aspetta la difesa, è finita, cioè no? Allora la prova non spetta la difesa. Beh, oddio, adesso spesso con Berlusconi è stato fatto il ragionamento contrario, non scherziamo su questo. Però io sono d'accordo con te. Bisogna. Tutti con i loro avversari fanno ragione, sono garantisti con se stessi e aggressivi con gli altri. No, ma questo hai ragione. Però, detto questo, tutto questo casino ha costretto Fini a rompere comunque la sua strategia. Ecco, ma secondo me anche quella era fondata sul segreto dello show, cioè la magistratura non caverà né al buco. Esatto. Quindi esatto. Io quando parlo dopo la magistratura mi assolve sono a posto. Perché però non una conferenza stampa e un video alla Berlusconi? Perché questo è un video stile 94 alla Berlusconi, adesso con i mezzi che sono cambiati, internet. È la prima cosa che mi è venuta in mente. Certo. È la nuova cassetta. E si sta affermando una politica che è fatta di visioni unilaterali. Io metto il mio programma, tu metti la tua. Ma è sbagliata casa, questa cosa, no? Il tuo pezzo è un orrore. Perché non fa una bella conferenza stampa in cui ci sono domande e risposte? In cui dice a questo non posso rispondere perché non lo so. Non ne so sai che cosa dirò se stasera vado da Paragone? Cioè che comunque in tutto questo si perdono i pesi e i contrappesi. Cioè siccome questa storia. Ma alla fine fanno la diretta, Paragone, fanno la diretta. Sì. Io credo che si perda il fatto che noi abbiamo, mentre è grave la vicenda dell'appartamento di Monte Carlo, ci siamo totalmente dimenticati che abbiamo appena negato l'autorizzazione a procedere per le intercettazioni di Cosentino, ma tu ti rendi conto? Cioè una maggioranza di governo dice che non si possono usare, i magistrati non le possono neanche toccare, quindi Cosentino diventa un cittadino più cittadino degli altri. E questo non è più neanche importante. Però scusami Elisabetto. Però scusami Luca, io su questa cosa qua devo dirti la verità. Io non so se sia giusto o meno, se c'era fumus persecuzionis. Ho detto ieri che sicuramente una decisione politica che condizionata dal momento in cui la maggioranza doveva comunque segnare un punto. Però diamo tutti per scontato su questa vicenda di Cosentino perché siccome c'è una richiesta di arresto, allora Cosentino è già un camorrista. Io questo lo rifiuto come principio. Io rifiuto diversa, il principio che siccome i finiani dicono questo, è una cosa grave, siccome c'è una richiesta di arresto, danno per scontato che Cosentino sia un mafioso o un camorrista. Non c'è un solo giornalista di sinistra o di destra che possa giustificare il fatto che si nega ai magistrati la possibilità di indagare su un politico che è accusato di cose nefaste. Allora decidiamo che questa legge va decidiamo che questa legge, che nel 2003, come giustamente avete scritto voi e come hanno scritto anche altri giornali, ma soprattutto voi, è stata votata da tutti, tranne 7-8 persone, la legge sulle intercettazioni, è stata votata da tutti, anche da quelli che oggi strillano, il Partito Democratico che oggi strilla contro la vergogna. Anche di anche tutti l'hanno votata. Questa legge che consente non solo del passaggio alla Camera o al Senato della necessità della possibilità di intercettare i deputati e i senatori, ma anche nel caso in cui ci siano intercettazioni su un'altra persona in cui c'è anche un senatore o un deputato di passare attraverso il vaglio della Camera o del Senato. È evidente che lì c'è poi una protezione dei propri membri che è accentuata. No, allora decidiamo che tutto questo non va bene, ma però quella legge là l'hanno votata tutti nel 2003, l'articolo 4 e l'articolo 6 mi sembra di quella legge lì, l'hanno votata tutti, anche quelli che adesso dicono che è uno scandalo questa cosa di Cosentino, questo chiariamolo. E la cassa è sempre d'accordo nel difendersi. No, ma voglio dire, questo è quello che è successo, per cui adesso quelli che gridano lo scandalo Cosentino è una vergogna, sono gli stessi che hanno permesso che questo scandalo accadesse, cioè il Partito Democratico, quelli che all'epoca era il Partito Democratico, hanno votato tutti questa legge e questi articoli. Sì. però sarà più grave lui che la usa come scudo, no? Sì, ma ripeto, ho letto il fior di retroscena in cui Berlusconi diceva Cosentino, ti devi difendere, devi dire tu che sei d'accordo, ma manco per niente, quello è andato e si è parato il culo. Punto. Sì, però voglio dire su questo poi... è uno accusato i rapporti con Gomorra, capisci? Ho capito, ma questo è accusato. Ci sono fior di sì, ma ci sono quando tu dici no, non è una bazzecola, però io ricordo decine e decine di casi in cui le richieste di arresto si sono trasformate in nulla. È recentissimo il caso. Scusami, noi non siamo protetti. Sì, ma al di là di questo, persino Elisabetto Ferrari Tugliani non è protetto, no, ma no, non ha nessuna richiesta di. Ho capito. Il re Vittorio Emanuele, che non è uno stinco di santo, è stato arrestato. Dal centrodestra parlano solo di questo, non come noi che parliamo un po' di. Ma quello fa parte del gioco, vabbè, ma noi siamo liberi, siamo mentalmente e intellettualmente liberi. Adesso senza fare paragoni, noi possiamo parlare di tutto perché ce lo possiamo permettere, per fortuna. Donato da Roma, buonasera. Dica. Io volevo intervenire sulla questione di quell'onorevole lì, senatore, che ha fatto un'interpretazione secondo me giustissima e mi ha tolto un velo. Mi ha tolto un velo perché l'inno italiano è una discriminazione. Innanzitutto parla di fratelli, e chi è figlio unico che facciamo? E poi io mi sentivo schiavo di Roma, E adesso mi ha svelato la scala. Guardi, Donato, il senatore Vallardi, con tutto il rispetto per il senatore Vallardi, ha detto delle stupidaggini sesquipedali. Cioè, non si può dire bisognerebbe cambiare le parole dell'inno, è una follia assoluta, non sta né in cielo né in terra, bisognerebbe cantare, cioè suonare l'inno ma non cantarlo, perché c'è quella parola schiavitù, ma schiavitù è presente in decine e decine di opere liriche, canzoni, che facciamo? Le cambiamo? Non stiamo, che è Povia, il Festival di Sanremo, che facciamo? Poi qualche ascoltatore ha detto sì, ma anche il vecchio inno russo è stato cambiato, l'inno tedesco, sì, ma quando ci sono state delle rivoluzioni, degli eventi storici pazzeschi, Telese, aiutami. Aiutami che tu. Che aiuto ti posso dare? Io no, vabbè, sono d'accordo con me, su questo sei d'accordo con me. Sei d'accordo con me. Abbiamo un grande maestro di radio collegato con noi, grandissimo maestro di radio che prima o poi tornerà in questa melma, tornerà in questo mondo magico della radio. Andrea Vianello, buonasera. Ciao, non vedo l'ora di tornare. Grande maestro dall'idea di un uomo anziano, capito? Allora mi fai... No, maestro di radio, perché maestro di radio uno può essere anche... No, che uomo anziano? Sei del 61, che anziano te? Sono ancora un quarantenne, ancora per un anno. Ancora per un anno, quarantenne. E Andrea Vianello, che come sapete ha condotto fino all'anno scorso Mi manda Rai 3, no? Storica della missione di Rai 3. Da lunedì debutta con un nuovo programma mattutino. Non fa concorrenza a te, Telese, non ti preoccupare, perché altrimenti... No, anzi... Ma Telese non si preoccupa mai, poi. Agorà si chiama, giusto? Si chiama Agorà, sì, come la piazza della polis. Come la piazza della polis. Ma a chi volete fare concorrenza? Omnibus, a chi? No, andiamo, forse l'ultimo pezzo di Omnibus mi sa che ci andiamo l'uno contro l'altro, però noi partiamo alle 9, 9 e 5, 9 e 10. Ah, per cui più tardi, più tardi. Ci passiamo il testimone, direi. Ma una cosa di politica? No, non solo di politica. Non solo di politica, diciamo anche di politica, un po' la sfida è quella di riuscire a parlare a quel pubblico lì, cioè dalle 9 alle 11 resta un pubblico a casa, diciamo molti persone che non lavorano, casalinghe, pensionati. Sì. Sono quelli che la politica non la sopportano più, no? Che magari sono quelli che non vanno a votare. Allora riprovare a parlargli di politica e a farli appassionare, impresa complicata. Però complicata, è complicato. È un pubblico complicato, 9-11, perché è un pubblico che insomma resta a casa, non è quel pubblico della mattina presto. Ma la radio quanto ti manca, Andrea? Su Rai 1 si vede mattino 5, esatto. A un'altra offerta. C'è Piroso però, no? Che già le ha provati a sondare, quindi insomma... Cioè, Piroso alle 10, sì, Piroso alle 10, hai Piroso. Piroso alle 10, va bene. Ma la radio quanto ti manca, Andrea? Tantissimo, la radio è casa mia. Io ho iniziato la radio, ci sono stato 12 anni, sono stati 12 anni più belli. Dici, ma come, se adesso stai in televisione? Esatto, la radio è più bella della televisione. La radio è più profonda, è più interessante, è più affascinante, è più divertente. Diciamo, perché torni alla radio? Esatto, perché la vita va così. La vita va così. Pure a te ho visto in televisione a un certo punto. Sì, quindi. Però io sono di passaggio in televisione, sono transeunte. Ma sì, siamo tutti di passaggio. Anch'io prima o poi vorrei tornare alla radio, dai. Se qualcuno non lo sa, perché poi la televisione sembra, quando uno va in televisione sembra che ha fatto sempre televisione. Andrea Vianello, è stato tanti anni il conduttore di una storica trasmissione di Radio 1 che è Radio Anch'io, Radio insomma, Anch'io. Che diciamo la verità, insomma, quando c'era Vianello era un'altra cosa, adesso io lo posso dire qui perché la Zanzara, come sai, possiamo dire tutto, era un'altra, ma con tutto il rispetto di quelli che ci stanno adesso, cioè, però quando c'era Andrea Vianello, Radio Anch'io era Radio Anch'io, c'è poco da fare, è così. Zitto, faccio finta che... Vabbè, vabbè, ma queste sono, sai, io sono un po' Santalmassiano da questo punto di vista. Per tu cui... che lo sai che lo sono anch'io, però, quindi... Lo so, dici, siamo... Questo è il nostro vizio, purtroppo, siamo, abbiamo un vizio comune. Ingombrante che ci ha però formato. Senti, dopo il traffico ancora qualche 3, sei finito di scrivere questa... Ma, no, no, scrivo pezzo del PD, è come scrivere Nara Maico. Il PD che c'entra? Devi spiegare come il PD? Che nella minoranza c'è una maggioranza che se n'è andata, ma in realtà è rimasta una minoranza che è rimasta. Perché oggi con tutto questo casino di Santa come Lucia, come faccio a spiegare? Dimmi tu come lo spiegheresti, cioè capisci, siamo la scissione dei fiorioniani dai franceschiniani. Vianello, voi lo spiegherete? Lo spiegherete? Cioè, vi occuperete di questa cosa? È proprio, mi sa, quel pezzo di politica che la gente scappa, no? Però certo, riuscire a spiegare anche questo, mica male, sarebbe divertente. Ma come, perché oggi con tutto questo casino di Santa Lucia tu ti occupi di queste cose del Partito Democratico? Telese, non ho capito. Sai, è come il cerino redazionale, ti sei divertito del giorno a scrivere dei Lignani e Berlusconi, che è come scrivere un film di pirati e d'avventura. Adesso basta, pure, mamma mia. E mo la Vandamarra dice, no, mo il pezzo su DS e PD te lo fai tu. Mamma mia, quindi, non ti invidio. Ognuno ha la sua croce. Non ti invidio, non ti invidio. Sono devastanti. Va bene, traffico, poi torno ancora con Andrea Vianello and Agorà, che debutta lunedì. Eccoci qui, 20:49, 800 24 00 24, ultima parte della Zanzara in compagnia di Andrea Vianello, che da lunedì su Rai 3 dalle 9 alle 11 debutta con un nuovo programma di informazione, e noi pensiamo che ogni programma di informazione che debutta sia aria nuova, e dunque volentieri è qui con noi. Andrea, adesso ti faccio tornare un po' ai tempi di Radio Anch'io. Allora, dai, interloquisci con me, con qualche ascoltatore. Giovanni, quanto ti manca questa cosa qui? Gli ascoltatori che intervenivano, le risposte, i politici, è una cosa diversa. Uno ogni tanto prova a farlo anche in televisione, ma non è la stessa cosa. È la stessa cosa. Come l'ascoltatore si siede al tuo tavolo e parla con te alla radio, non può succedere in televisione. Non può succedere in televisione. Poi, diciamo, tu effettivamente col pubblico, poi con Mi manda le 3, hai mantenuto un certo feeling, cioè non facevi il conduttore, diciamo, tipico, no? di talk show. No, c'ho però provato. è diverso, non c'è... La radio, le voci. Vabbè, la radio, sai, è come stare tutti nella stessa stanza. Quelli che le telefonate che cadono, le linee che non funzionano. Quelli chiamati solo per nome, Franco da Brescia. Esatto, che uno si domanda. Questa voce misteriosa, i camionisti che ti chiamano dentro. No, dei nostri competitor, che ormai non sono più nostri competitor, per diversi motivi. In realtà ogni tanto dicevano il cognome, no? Non li nominiamo nemmeno. Il cognome lo dicono ancora o no? Tu che segui Uomo Rai, segui anche quella trasmissione lì che è onda alla stessa ora su Radio 1. Quella che non si può citare. Quella che non si può citare. Lo dicono il cognome? Lo dicono il cognome? Fatico un po'. Fatico un po' a seguirla, quella, ma per questione di orario. Sì, per carità, no, ma non ti voglio dire. No, fare poi niente. Perché ogni tanto sento tenso. No, adesso, non ma perché la radio mi si incanta a quell'ora lì proprio, è un problema a quell'ora. Sì. Senti, ma lo dicono ancora il cognome degli ascoltatori? Sì, mi sa che lo dicono, lì hanno preso questa. È bruttissima questa cosa del cognome, è una cosa orrenda, io penso. Ma però... sì, è che è una vecchia tradizione, chiamate Roma 3131, che si dice il nome e la città. E la città. È tutto più misterioso, la radio... Certo, potrebbe essere chiunque, in realtà non potrebbe essere una persona che chiama da sai, io dico sempre che per anni di me hanno pensato che ero alto e biondo e poi hanno avuto questo trauma. ogni tanto anche quando incontro me dicono, ma ti pensavo che fossi più vecchio, più anziano, eccetera. Sì, la vecchia, perché le voci ci fanno sentire più grandi. Esatto. Ci ha chiamato uno, Antonio da Roma, che dichiara essere il taxista di Skanderbeg. Sai chi è Skanderbeg? Questo che ha fatto un po' il... E come no, quello che doveva andare e poi non è andato. Sì, stasera anche da noi ha fatto un mezzo show. Antonio, prego, dica, buonasera. Salve Cruciani, io sono il tassista che ho avuto il piacere di conoscere Skanderbeg, ma non l'ho conosciuto, cioè non l'ho riconosciuto fisicamente. Ah, ma lei è il tassista che ci ascolta sempre, che ha detto Skanderbeg che ci ascolta sempre, che quando lui è salito lei ha riconosciuto la sua voce, ha detto lei, l'ho sentito, sì, la Zanzara. Esatto. Sì, era lo stesso giorno in cui aveva parlato con voi alla radio e era un po', diciamo... Ecco, ma che impressione le ha fatto, Vianello? No, ma radio... soprattutto da che sede di partito lo portava qua? Esatto. No, ma lo sa la cosa strana qual è? Che lui adesso è UDC, no? Sì. No, perché adesso, cioè da ieri. Potrebbe essere cambiato. Poi domani, come dice Vianello, potrebbe anche decidere un'altra cosa. No, però era prima di partire per le vacanze, è salito insieme a altri due o tre colleghi e siamo andati a Villa Miani. A Villa Miani c'era una serata, adesso non ricordo bene, mi sembrava che fosse organizzata da Berlusconi o da Fini. Beh, ma tutto torna però. Fini per organizzarci con i conti, per organizzarsi con i conti, ecco perché ho sentito DC e quindi... Niente. Vabbè Antonio, adesso per carità non siamo, non facciamo le indagini sui movimenti di Scandale perché ci mancherebbe altro, ce ne freghiamo, però tutto torna in realtà, se c'era un appuntamento di non so che tipo organizzato da Berlusconi, in quel momento, cioè pochi giorni fa, lui era del PDL, per cui i conti dovrebbero essere... Non ricordo con esattezza, però mi ricordo che parlavamo dell'inno... Che dicevi, Andrea? Legittimo che andasse a Villa Miani. Eh sì, insomma, era legittimo, non ci scandalizziamo per questo, non ci scandalizzeremo. Abbiamo fatto qualche battuta sull'inno che aveva inventato la figlia. Sì. Ma niente di che, lui mi ha detto che ti è sembrato, mi ha chiesto che ti è sembrato la radio con Cruciani. Io ho detto tranquillo, non l'ho riconosciuto solo dalla voce perché lui si era presentato all'entrata di Villa Miani e quindi ha detto il suo nome, ma io sinceramente fisicamente non l'ho riconosciuto. Va bene Antonio, grazie. I tassisti, i nostri grandi ascoltatori, noi li amiamo sempre anche se spesso li bacchettiamo perché vorremmo naturalmente grandi riforme, più taxi, più tutto, però restano sempre un nostro punto di riferimento assoluto. Allora, Giovanni da Roma, sempre in collegamento con Andrea Vianello, pochi minuti, Andrea, poi ti lascio. Le prove le hai finite? Sì. Le prove le ho finite, domattina riprendiamo. Giovanni da Roma. Buonasera a tutti. Dica. Cruciani e agli altri ospiti. Dunque, io volevo premettere, io non sono assolutamente un leghista, però ho apprezzato l'intervento invece del sindaco del paese, che non ricordo, quello dove non è stato... Che è anche un senatore, sì, il senatore Vallardi. Ah, ecco, lui era anche senatore, non l'avevo capito. E io volevo dire che non c'è niente di paradossale o di strano nel cambiare le parole di un inno, perché questo è stato fatto ancora in tempi molto recenti, per esempio l'ha fatto l'ex Unione Sovietica. Appunto, certo che non è uno scandalo, perché l'Unione Sovietica è successo qualcosina, poi è crollata, insomma, per cui siamo passati a un altro tipo di organizzazione statuale, eccetera, eccetera, e dunque hanno cambiato le parole perché erano parole che ricordavano quel periodo lì, insomma. E da noi, per fortuna, non ci sono rivoluzioni, non ci sono disastri, non ci sono guerre, non ci sono morti, per cui l'inno italiano quello è e quello rimane, altrimenti, come dice lo stesso senatore Vallardi, si apre un dibattito parlamentare, perché lui questo ha proposto questa sera, si apra un dibattito parlamentare, cosa ancora più assurda di voler cambiare l'inno, secondo me. Per cui, l'inno d'Italia, questo me lo sono perso perché ero facevo le prove, cioè, ha proposto un dibattito parlamentare sul cambiamento dell'inno d'Italia. Esatto, il senatore Vallardi, il quale dice che ha proposto e ha già fatto eseguire, quando gli è capitato per motivi istituzionali, l'inno ma senza le parole, dice che ci vorrebbe un dibattito parlamentare, lui dice certo non adesso che ci sono problemi più urgenti, ma in un altro momento per cambiare l'inno. Ma lui non vuole il fa-pensiero, lui vuole Fratelli d'Italia senza parole. O Fratelli d'Italia senza parole, oppure lui propone, che cos'è, il Piave mormorò, poi gli ho detto il Piave mormorò è una cosa, insomma, anche quella abbastanza nazionalista, l'Italia, no? La prima guerra mondiale, fatto sì, però le parole sono più belle, comunque propone un dibattito parlamentare. Che vuoi fare? Mi sembra che con i problemi di disoccupazione ci stanno adesso. Cose molto serie. Cose molto serie. Potremmo parlare dell'inno di Santa Lucia prima o poi, quindi potremmo adottare l'inno di Santa Lucia. Su Santa Lucia invece chiudiamo in questo modo. Fatemi chiudere con Santa Lucia di questa sera. Mi hai dato proprio l'idea per chiudere questa trasmissione. Santa Lucia, lontana te. Grazie Andrea Vianello. Grazie a voi, grazie alla Zanzara. Appuntamento con Agora quando volete. Da lunedì noi torniamo naturalmente con la Zanzara, lunedì 18:30. Ma quando sponta luna, lontana Napoli non si può stare. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non mi preoccupare.